Speciale, la politica nel tunnel. Sì, buon pomeriggio dalla postazione di Montecitorio, qui da Elisabetta Fiorito, sguardi puntati al Quirinale dove domani inizieranno le consultazioni del Capo dello Stato. A questo proposito il segretario PD Pierluigi Bersani spiega proprio che andremo al Colle con la proposta politica votata in direzione nazionale, ovvero gli 8 punti. Poi spetta a Napolitano decidere. Si parla anche di nomi e volti nuovi per tentare un effetto grasso, ovvero lo smarcamento di alcuni senatori 5 Stelle per un breve programma di governo, ma tutto ciò è ancora prematuro e ve ne daremo conto domani durante le consultazioni al Quirinale. Oggi invece ci occupiamo di nomine parlamentari. Il Movimento 5 Stelle, dopo aver confermato i capigruppo Roberta Lombardi e Vito Crimi, capogruppo, loro dicono pro tempore, è adesso pronto per una nuova battaglia, indica i candidati questori, segretari e vicepresidenza della Camera. Non è vero, Alessandra Scapisi? Buon pomeriggio. Innanzitutto il Movimento 5 Stelle rivendica alcuni ruoli chiave nelle Camere, ma senza accordi con i partiti. In particolare a fare gola è soprattutto la figura di questore, cioè colui che si occupa del controllo dei conti di Montecitorio, ruolo per il quale è stata proposta la 26enne Laura Castelli e in seconda battuta Carla Ruocco. Per i grillini, come si sa, la trasparenza e la riduzione dei costi della macchina pubblica sono obiettivi prioritari e dunque conquistare una delle poltrone che supervisionano il bilancio del Parlamento sarebbe decisamente un bel colpo. Ma il Movimento 5 Stelle chiede anche una delle vicepresidenze, per la quale è candidato un altro giovanissimo, Luigi Di Maio, e il posto di segretario d'aula per il quale c'è il nome del 32enne Riccardo Fraccaro. Poltrone ambite, dicevamo, ma da soli 5 Stelle non hanno i numeri per eleggere i loro rappresentanti, dovrebbero chiedere l'appoggio di altri partiti, ipotesi esclusa categoricamente dal Movimento, una linea che è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa a Montecitorio da Roberta Lombardi, capogruppo del Movimento alla Camera. Sentiamo. Giovedì si voterà l'ufficio di presidenza. Noi, ribadisco, abbiamo fatto la scelta di presentare 3 candidati nostri. La legge elettorale e il regolamento della Camera prevedono che, nonostante il fatto che noi siamo la prima forza politica in questo ramo del Parlamento, non abbiamo la garanzia di poter vedere i nostri candidati eletti se non faremo accordi con i partiti. E noi non faremo accordi con i partiti. Ora, la responsabilità di lasciare fuori il 25,5% dei cittadini italiani che ci hanno messo qui dentro come loro portavoce e soprattutto come controllori, la responsabilità di lasciarci fuori se la prenderanno i partiti nel caso in cui non votino i nostri candidati all'interno dell'ufficio di presidenza. Noi vogliamo assumerci questa responsabilità. È stato detto che siamo qui in gita scolastica, è stato detto che siamo in vacanza. No, noi siamo qui per assumerci questa responsabilità, la responsabilità del ruolo in cui i cittadini ci hanno messo. E non lo facciamo perché vogliamo poltrone. Noi non vogliamo poltrone, ma vogliamo riconosciuto il ruolo del 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle e il ruolo che i cittadini ci hanno affidato. Una conferenza stampa in cui Roberta Lombardi non ha però lasciato nessuno spazio alle domande dei giornalisti. Una comunicazione davvero a senso unico, come spesso accade con i grillini. Ma allora, per saperne di più, Elisabetta, tu hai intervistato un deputato, Roberto Fico, il quale ha innanzitutto spiegato con quali criteri sono stati selezionati questi candidati. Sentiamo la tua intervista. Perché avevano i profili migliori, abbiamo fatto per la prima volta in diretta streaming la nostra selezione con votazione. Queste persone corrispondono perfettamente ai requisiti che devono essere ricoperti in questi incarichi di responsabilità, di grande responsabilità. Sappiamo, per esempio, Laura Castelli è giovanissima, ha 26 anni, sì, fa il tecnico di bilancio, ma riuscirà una persona che in uno studio normale, che fa il praticantato, a leggere tutti quanti gli inghippi? Assolutamente sì, ma poi lei è stata responsabile anche nell'ufficio di bilancio della regione Piemonte, quindi assolutamente sì, è una persona validissima e poi non sarà mai da sola perché sarà in rete con tutti noi e quindi metteremo tutti gli atti, le documentazioni online in modo trasparente. Senta, invece si parla sempre di questo accordo di governo e voi continuate a ribadire di no. Quello che è successo al Senato, dite, non è un precedente, però se Bersani a un certo punto vi propone tutta già che a voi piace, con un programma minimo in cui si parla di quello che sta a cuore al Movimento 5 Stelle, il taglio dei costi alla politica, non la riduzione del numero dei parlamentari perché si dovrebbe fare doppia votazione e la vedo dura, ma insomma, voi proprio continuate a sbarrare le porte? Noi vogliamo in questo momento, ed è questa l'intervista per cui ho detto di sì, vogliamo i questori, vogliamo la vicepresidenza e vogliamo i segretari, perché abbiamo il 25% che ci ha votato e il popolo italiano ci ha votato per il 25%, siamo la prima forza politica alla Camera dei Deputati e vogliamo partecipare responsabilmente alla divisione dei posti all'interno dell'ufficio di presidenza con responsabilità. Quindi non è vero che dite sempre no, volete... No, noi vogliamo i posti di responsabilità per cui i cittadini ci hanno chiamati e li dobbiamo avere. Ecco, mano a mano che li conosciamo questi deputati abbiamo capito un pochino, no, il ragionamento, abbiamo sentito Roberto Fico che mi diceva è per questo che io ho concesso l'intervista, loro vogliono intervenire solo ed esclusivamente su l'oggi, quindi non si parla di governo. Una posizione curiosa, quella dei 5 Stelle, l'ha definita invece il segretario PD Pierluigi Bersani, però lui dice comunque noi siamo gente di buona volontà e vedremo. Però non tutti sono convinti che i grillini potranno ottenere questore, segretario e vicepresidenza. Ci spiega perché Gian Claudio Bressa, sempre del PD. La prassi parlamentare è che questi sono figure istituzionali che vengono votate proporzionalmente. Chi prende più voti lo elegge. Quindi con questa legislatura e questo Parlamento frastagliato, sì, la coalizione di centrosinistra si è aggiudicata il presidente, no? Ora i vicepresidenti quanti sono? 4. Sì. E come saranno spartiti? Proporzionalmente, a seconda della rappresentanza che c'è alla Camera. Quindi uno al PD, uno al PDL, uno al Movimento 5 Stelle o forse due al PD? È il voto proporzionale, a seconda del numero dei voti che hai sei in grado di eleggere le figure istituzionali. Non so come andrà, lo vedremo. E quindi, ma loro possono ottenere il questore... E i questori quanti sono? 3? Sono 3, se hanno voti a sufficienza possono ottenere qualunque cosa. Va bene, però poi ci dovrà essere anche da parte vostra una desistenza, generalmente prassi parlamentare che qualcosa vada all'opposizione, no? Certo, ma l'opposizione ha i numeri per garantirsi i posti, non ha bisogno dei voti nostri, per cui chi dell'opposizione avrà più voti degli altri avrà i vicepresidenti e i questori. Ecco, abbiamo sentito Gian Claudio Bressa sulla desistenza, un po' ha schivato. Ricordiamo che oggi poi il PD elegge i capigruppo e Anna Finocchiaro e Dario Franceschini hanno fatto un passo indietro. È stato eletto Luigi Zanda al Senato, Roberto Speranza è stato indicato da Bersani in una riunione che si sta tenendo proprio qui a Montecitorio nel gruppo PD. Ricordiamo anche che sono stati eletti quelli della Lega Nord, Bitonci al Senato e Giorgetti alla Camera e anche dell'AI, scusate, per la lista civica Montecitorio. Insomma, ricordiamo poi che il PDL ha già eletto Renato Brunetta alla Camera e Renato Schifani al Senato, ma nel PD la vera partita è quella sulla Presidenza della Repubblica. C'è una richiesta ben precisa da giorni da parte del PDL, da parte di Silvio Berlusconi, che dice il nuovo presidente della Repubblica non deve essere di sinistra. E poi nel PDL c'è un'altra preoccupazione, ovvero che si prospetti in un modo e nell'altro, magari con un colpo di Bersani, appunto dai volti nuovi, un governo Movimento 5 Stelle PD. Sentiamo a questo proposito Beatrice Lorenzini. Non dovrebbe avere paura il PDL, ma gli italiani. Penso che Bersani stia provando tutto per arrivare a questo risultato, anche questa specie di governo tecnico politico dei nuovi, dei volti nuovi, no? Perché ormai va di moda il talent show, e quindi pur di ottenere un appoggio come quello sullo stile dell'appoggio avuto per Grasso al Senato, quindi finte diaspore, qualcuno che esce fuori all'ultimo momento, non so se riuscirà a barcamenare e per quanto in questa tribolante avventura. Però la Lega verrà con voi al Quirinale, quindi sfuma questa possibilità di accordo tra PD e Lega. Secondo me non c'è mai stata. Poi voglio dire, non so come il PD possa andarlo a spiegare ai suoi elettori dopo che per anni ha demonizzato la Lega in tutti i modi. Si vede che la Lega alla fine fa meno paura del 5 Stelle. A proposito del Quirinale, che è la carica che vi sta più a cuore, Bersani ha detto sì, si può decidere insieme, ma non deciderà Berlusconi. Ma e qui non è un tema di decidere Berlusconi. Noi abbiamo chiesto, dopo che il Partito Democratico, sempre con il suo 29,7%, ha preso la maggioranza alla Camera, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, e che il Presidente della Repubblica sia un Presidente di garanzia. Nomi? No, non facciamo nomi, facciamo un metodo. Che sia un profilo di una persona che sia in grado di essere unificante per il paese e non dividente. Ma ce la farà Bersani a fare un governo o si arriva al voto? Secondo me si va a votare. Insomma, pessimismo in casa PDL, ma sulla partita del Quirinale il PD non la pensa così. Sentiamo Davide Zoggia. Non è così che si elegge un Presidente della Repubblica, non si elegge con i veti, non si elegge andando in piazza. È chiaro che il Presidente della Repubblica deve avere determinate caratteristiche, che deve essere quelle di essere un garante di quella che è la Costituzione, e noi lavoreremo perché questo avvenga. Quindi le consultazioni al Quirinale, c'è molta attesa, noi le seguiremo e vi racconteremo a chi darà l'incarico il Presidente della Repubblica. Per il momento, per questa sera è tutto. Un saluto dalla postazione di Montecitorio, da Elisabetta Fiorito.